Mi ricordo la liberazione di Parigi, che non è la fine della guerra, è avvenuta prima, certo. In cui fummo svegliati, non so se la mattina presto o la sera tardi, Antonella ed io. Gli ultimi giorni dormivamo per terra sui materassi per i bombardamenti, le finestre dovevano rimanere aperte e così via. Ci svegliarono gli zii emozionatissimi e ci portarono davanti a un alberghetto che c'era poco lontano, dove un comando nazista di alti ufficiali erano stati arrestati dai partigiani. E uscivano questi giganti della guerra con le mani così. E poi ho saputo, non mi ricordo se Paris Brûle, insomma il romanzo, cioè la relazione della caduta di Parigi per i nazisti. E non so dove l'ho letto, che i partigiani, cioè i tedeschi ufficiali, telefonarono agli alleati: siamo prigionieri, però vogliamo essere prigionieri o degli inglesi o degli alleati, gli americani, ma qui ci sono i partigiani. Ed è una delle poche volte, penso, anche se non sono informato, in cui alleati sono stati corretti. No, sono nostri alleati, la Francia libera, verranno loro, anche se non erano regolari. Per i nazisti era importante non essere arrestati da colleghi come... E allora i zii ci svegliarono, ci portarono, guarda, tu non puoi capire, ma sono 20 anni che aspettiamo questi momenti. E mia sorella era in braccio alla portinaia, anche loro erano, lui e lei erano, la coppia erano antifascisti, erano francesi però... E detto, gli diceva: dai, guarda, sputa di loro, come facevano molte persone. E mia sorella e Ducati, come eravamo da borghesi, non si sputa su nessuno, ma ci mancherebbe, insomma, non abbiamo sputato, no? Abbiamo semplicemente, io mi ricordo aver gridato i Sloan, Sal Bosch, che sarebbe Crucchi, insomma. Niente, e lì poi dopo l'alberghetto e un altro vicino diventano la meta di chi aveva perso contatti con congiunti o in guerra, eccetera. Era cosparso di bigliettini, no? Cerco il signor Serafino Coglionetti, che era l'ultima volta in Russia, e così. Ma prima, con appunto, perché poi in realtà te a un certo punto da stare con tua madre e tuo padre, tua madre morì, tuo padre andò in Argentina, rimasi da mio nonno, dai tuoi nonni, da mio nonno, quindi sì. C'hai avuto questo passaggio e il precipitarsi degli eventi con la guerra, se ti, quel periodo lì probabilmente sono ricordi inconsci, no, sono ricostruiti attraverso le conversazioni, ricordi proprio veri, mi ricordo, ti dico, la liberazione, però considera che avevo 7 anni, insomma, sì. Ma prima alla liberazione avevi 7 anni. Eh sì, sono del 37, la liberazione di Parigi è stata al 44. Eh sì. Ci è mancato quasi, quasi un anno di guerra per arrivare al maggio 45, in cui finisce la guerra e è morto Hitler e così via. Ma te, il sentimento della liberazione, cioè del fatto di dire... Ah beh, di vedere tutta la Francia, che ricomparivano le bandiere tricolori, passavano queste macchine con la bandiera, con la croce di Lorena, no? Sai, quella con due aste, FFI, Force Française de l'Intérieur, tutte le ragazze che andavano lì li baciavano, tutti che buttavano da... caramelle ai bambini, poi quando sono arrivati gli americani, altre che caramelle, le cingum, le cose, insomma, dai carri armati ci riempivano di cose, perché era una Parigi in festa, che io ricordo, insomma, mi ricordo la sfilata della Quinta Armata sopra le Champs-Élysées, in cui per noi era appassionante, insomma, dopo i francesi, gli inglesi, c'era la legione straniera, c'erano gli indiani, i Gurkha, i senegalesi con i Goumier, cioè per noi ragazzini amanti così dei militari, delle divise, insomma. Mia zia Vittoria, ma non so se mia cugina ha buttato, dovrebbe avere delle foto di io a Cavalcioni del cannone di un carro armato tedesco. L'hanno fatto vedere in certi film, il carro armato tedesco e quello alleato, non so se inglese o americano, che uno dei due aveva perso i colpi, non aveva più colpi, per cui si sono incastrati apposta per non spararsi, uno dei due non poteva sparare, eccetera. Allora c'era la foto di questi due su uno dei cannoni e c'era un ragazzino appollaiato. Invece quella zia che ti dicevo, la sorella di mio padre, la modista, il suo marito modista, in questi zoni esaltanti, queste prime ore della liberazione, a parte che la casa di mio nonno telefonavano a questa zia che era dall'altra parte della Senna, qui che le bandiere della libertà che sfilano, cioè, no, ma qui che sfilano i tedeschi, ci hanno messo un giorno per prendere anche la Rive Gauche. E allora mio zio, incosciente come tanti altri, ha detto, beh, vado a fare una sgamata al movimento, insomma, è uscito, mia zia terrorizzata, no? È andata a prendere la pistola che aveva affidato mio padre, una pobieda russa, gliel'ha data e ha detto, senti, io sono disposto a essere la vedova di un eroe, ma la vedova di un cretino no, per cui vai e ammazza un tedesco se puoi. Anche perché c'erano i cecchini che vendevano cara la pelle, insomma, per poter avere una specie di passacondotto, eccetera, noi continuiamo a sparare finché... Sì. Però intorno a te comunque sia era... Festa e basta, festa. Sì, sì, sì. Ma quindi non si arresero contemporaneamente dalle due? No, parti. Si ritirarono poco a poco. Cioè, la Rive Droite era già libera. E nella Rive Gauche invece sfilavano questi camion, che sai, la politica dei tedeschi era di come dire, inclinare tutte le loro industrie verso le armi, verso la produzione bellica, per cui vedevamo camion di macchine da cucire, di biciclette, di tutto quello che non producevano più e che fregavano in Francia per portarlo in Germania. C'era l'ordine di tenere tutte le finestre aperte, per fortuna era in giugno, e aperte e di non affacciarsi. Mia nonna mise il naso fuori, per curiosità, c'è una sventagliata di mitra, per cui salto indietro. Poi dopo suonarono due tedeschi alla porta, per cui strizza, non c'era mio nonno, non c'era. E mia nonna andò ad aprire, erano due ragazzini con l'elmo più grande di loro, sono queste ultime leve di Hitler, 15 anni, sì, che crepavano di sete e hanno chiesto il permesso di riempire le borracce, insomma era questo... il clima, insomma, e poi sono andati via pure loro. Invece sulla la cosa dei bombardamenti, la maschera antigas, hai una memoria cosciente oppure... No, cosciente, sì, sì, sì. Cioè come il fatto di dover, come dire, la paura del... Non so se c'entra la paura, per bambini anche molto il travestimento, l'essere importanti e così via. La maschera antigas era un obbligo a cui ci siamo abituati, insomma, c'era questo serbatoio di metallo, lo prendevi come prendevi la cartella. Ma a scuola non è che c'era l'idea, cioè non percepivi il fatto, Dio ci bombardano, Dio che succede? Lo percepisci come l'ansia. Un bambino che se la cava sempre, anche se bombardano vuoi che prendano me.